performance di oggi si chiama Animali Vivi ed è un reading montato su musica tratto da un opuscolo che hanno scritto dei compagni e delle compagne che sono stati in Val di Susa l'anno scorso e dopo una settimana hanno insomma, deciso di scrivere della loro esperienza, di quello che si sono vissuti e quindi abbiamo tratto diciamo due piccole parti e le abbiamo appunto musicate, fatto una lettura e un reading e facciamo appunto questa performance di trapezio montata su questa musica. Io sono una novizia, nel senso lei è la maestra, io semplicemente attingo da lei le informazioni e imparo. E io mi alleno un po' al Forte Prenestino e un po' in un'altra palestra e insomma sì, cioè, cerco di attingere ovunque possano crearsi situazioni in cui possa essere montato un trapezio, un tessuto e vado, mi alleno, ad esempio ci sono degli amici che lo hanno costruito, l'hanno appeso nel parco dell'Insugherata e quindi ogni tanto si va lì e si prova in mezzo al parco, che è sicuramente la situazione più figa, più bucolica. Allora, abbiamo fatto un'altra performance al tessuto, quindi altre due performance al tessuto, una al Carnevale del Laurentino 38 e una di fronte alla Cassazione al G8 quando c'è stato insomma l'ultimo processo per gli imputati del G8. E 15 anni per gamba invece è perché vabbè, Stefania ci chiama chiedendoci ma come vi chiamate, noi ci siamo guardati e abbiamo fatto boh, è venuto fuori 15 anni per gamba perché ci abbiamo 15 anni per gamba, quindi per quello per adesso, perché per ora siamo tutte e due trentenni, poi l'anno prossimo saremo 16 anni per gamba. Allora, come tutte le performance, Animali Vivi è un work in progress perenne. Quindi è stato presentato già due volte, però in un altro modo, una volta era solo lei, una volta ero solo io. E le musiche che abbiamo per ora sono delle tracce che sono state scelte a suo tempo dai compagni che hanno scritto l'opuscolo. Ma diciamo che vabbè, all'interno di un festival in cui appunto sono presenti vari tipi di performance, la performance come dicevi tu può essere una performance di danza, può essere una performance teatrale, può essere anche una performance circense e quindi niente, è stato solo un modo di mettere altra carne al fuoco se vuoi.